Nota dell'autore. Questo racconto è frutto di fantasia. I personaggi di Milo, Corrado, Bertone, Fante, Agnese, Don Ilario, Giacomo, Pietro, Luca, Andrea, Marco ed Elena sono completamente inventati e vivono soltanto nelle pagine di questo libro. Le loro vicende, i loro dialoghi e le loro azioni non hanno alcun riscontro storico documentato. Il capitolo sesto, dedicato alla liberazione di Montagnana, è completamente inventato. Sebbene il dominio di Ezzelino III da Romano sulla città sia storicamente documentato e la città abbia in effetti visto avvicendarsi diverse signorie nel corso del XIII secolo, i dettagli della liberazione narrati in queste pagine, incluso il personaggio di Rinaldo da Castelbaldo e il ruolo degli armigeri nel soccorso alla città, sono frutto di libera invenzione narrativa. L'autore è pienamente consapevole che alcuni elementi narrativi non coincidono con la storia reale. Questa scelta è stata fatta deliberatamente, con il desiderio di offrire al lettore un racconto avvincente e appassionante, capace di avvicinare chiunque, anche chi non conosce la storia del Montagnanese, alle radici profonde di questa terra straordinaria. La fantasia, in questo caso, è stata messa al servizio della memoria. Per la storia vera e documentata di Montagnana, dei suoi castelli, di Ezzelino III da Romano, dei Carraresi e dei 10 comuni del Montagnanese, si rimanda alle fonti storiche ufficiali e agli studiosi che hanno dedicato anni di ricerca a questi luoghi.